Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, sono le 11:09, un pochino anche di più, siamo quasi alle 11:10. Fabio Cantadori in forma e alla regia la parte tecnica mi sta dicendo di sì, sì, in effetti lo vedo, è un bel faccino. Laura Vanossi è prontissima e anche i titoli del nostro sommario, andiamo! Quando il talento è una questione di famiglia. Parla con il medico delle tue notti bianche. Epidurale, c'è un'alternativa. Genitori, figli e sport. Oggi è venerdì e oggi cerchiamo di capire se e come un genitore può aiutare un figlio a trovare nello sport un alleato per crescere bene, e quindi vogliamo capire in base a quali considerazioni va scelto lo sport per i nostri figli, quali obiettivi possiamo porci insieme, sottolineo insieme, a loro, e come dobbiamo comportarci nei confronti di allenatori e società. 800 24 00 24, vi voglio subito attivissimi, i messaggi al 349-238-6666. Dottor Confalonieri, buongiorno e bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora, può cominciare a sviluppare questi stimoli? Sì, estremamente interessanti. Il primo tema, in base a cosa scegliere? Cerchiamo di essere un pochettino sintetici. Beh, è banale e scontato, ma indubbiamente è importante, in base ai gusti o a ciò che apparentemente piace di più ai nostri figli. Vanno capiti, vanno interpretati, vanno ascoltati, ma non solo. Abbiamo altri due requisiti da rispettare. Il primo, in base alla praticità dello sport che scegliamo di praticare, perché molto spesso scegliamo uno sport e poi siamo impossibilitati ad accompagnare i nostri figli, ad aiutarli ad andarlo a fare e via dicendo. Quindi questo è un criterio di cui dobbiamo necessariamente tener conto. E terzo, spesso dimenticato, soprattutto in Italia, in base al talento e alla predisposizione dei nostri figli. Certo. Perché non tutti sanno fare tutto. C'è chi ha il talento per fare uno sport, chi ha il talento per farne un altro, chi non ha tanto talento e quindi dovrebbe scegliere uno sport di base, chi ha molto talento e quindi è giusto che non lo disperda e dovrebbe scegliere l'attività per la quale ha più talento. Quindi questi sono un po' i tre criteri. E poi allenatori e società. Esatto. Io su questo aspetto ho un'idea molto precisa, un modello a cui vorrei davvero in tanti si facesse riferimento. Cioè, secondo me all'inizio dell'anno noi e i nostri figli dobbiamo proprio fare un contratto con l'allenatore e con la società dove portiamo nostro figlio. Portarlo là e dire: bene, quest'anno il ragazzo farà questo sport con voi. Decidiamo insieme alla società e all'allenatore quali sono gli obiettivi: crescere, dimagrire, imparare a muoversi, entrare in squadra, vincere il campionato, andare in nazionale, in funzione del talento e della storia sportiva del nostro ragazzo. Stabiliti insieme questi obiettivi, i genitori dovrebbero sparire, vigilare da lontano, non condizionare né la società né i bambini, ripresentarsi dopo un anno, verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti, se sì perché, se no perché, e decidere se e come continuare la collaborazione. Questa è la garanzia che le cose funzionino nel migliore dei modi. E su questo finisco, sono stato un po' prolisso stamattina, no, ma su questo vorrei provocare i nostri ascoltatori, nel senso, voi vi comportate così? Voi stabilite questo contratto con figli, allenatori, società all'inizio della stagione e poi vi tirate fuori, vi mettete in disparte ad osservare, oppure siete sempre lì col fiato sul collo di bambini ed allenatori? Oppure si può fare anche un po'. Oppure siete a metà. A metà, no? Esatto. Qual è stata la vostra esperienza? E poi, naturalmente, se avete scelto, in base a quali criteri avete scelto, siete stati contenti o meno della scelta che avete fatto? Queste sono le due domande fondamentali. Lei vorrebbe dei genitori che arrivano, parlano, concordano e poi via, spariscono per un anno. Assolutamente sì. Pongono degli obiettivi, quindi degli obblighi alla società, non è che abbandonano là il figlio. Con ragionevolezza e poi li lasciano lavorare. 824 0024 se volete intervenire, 349 238 6666. Ma dottor Confalonieri, le sue considerazioni valgono in linea generale un po' per tutti, ma mi chiedo cosa succede quando il genitore è stato un campione, insomma, oppure quando vogliamo rovesciare la cosa, si è figli d'arte. Immagino, io non ne ho di campioni in famiglia, che lei ne ha? No. Ecco, non siamo campioni. Ma io immagino che la situazione sia un pochino più complessa, ma dalle cose complicate si può prendere spunto per avere delle indicazioni, per risolvere magari piccoli problemi che ci sembrano insormontabili. Allora ho invitato Ninna Quario, grande campionessa di sci e mamma di Federica Brignone, che è una delle giovani sciatrici più forti al mondo, chiedendole di darci una mano. Ninna, ciao, benvenuta. Buongiorno. Ciao, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Senti Ninna, quanto hai influito sulla scelta di Federica? Allora, innanzitutto è chiaro che in una famiglia in cui i genitori lavorano nel mondo dello sci, perché io dopo che ho smesso mi sono dedicata al giornalismo sportivo e in particolare degli sport invernali, mio marito Daniele è maestro e allenatore di sci. Sì, si mangia pane e sci, influisce. Certo. Però nella nostra famiglia noi abbiamo fatto fare tutti i tipi di sport ai nostri figli, lo sci era uno di questi, ma poi dalla ginnastica artistica, all'atletica leggera, al pattinaggio su ghiaccio, al golf, il tennis, hanno provato tutto. Di tutto. Noi d'estate stavamo mesi al mare, quindi arrampicata, ecco tutto, veramente tutto. Quindi non li abbiamo sicuramente limitati. Fatto mancare nulla, non li avete limitati. No. Ma senti Ninna, quanto può aver condizionato tua figlia avere una mamma come te, insomma, che ha vinto tutto? Ma non credo tanto, anche quando lo chiedono a lei, lei dice, a parte che Fede è una che è veramente molto autonoma, indipendente, fin da quando è piccola, non le importava quello che avevo fatto io. Ho cominciato a capirlo quando, facendo le prime gare di sci, sì, e andando bene, sentiva le voci dietro che le dicevano, complimenti, ma certo, con una mamma così, ma addirittura con un papà allenatore, ovvio. E lei rispondeva, ma come ovvio, in pista ci sono io, non è che grazie alla mamma mi tolgono dei secondi o certo. Vado più forte. Quindi questa è stata una difficoltà per loro, ma anche parlo per loro perché ne ho due di figli, anche l'altro è un aspirante campioncino, è bravo, è più piccolo, però è anche lui promettente. È messo bene. Sì, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Però senti Ninna, volevo chiederti, adesso non da atleta, proprio solo da mamma, capisco che per te è abbastanza difficile, ma il dottor Confalonieri diceva i genitori dovrebbero all'inizio dell'anno fare un patto con le società, l'allenatore, stabilire degli obiettivi e poi sparire. Tu sei d'accordo? Nel senso che ha ragione, perché fra l'altro in casa nostra ho anche un marito appunto allenatore che deve subire a volte dei genitori troppo presenti, troppo che stressano i figli. Però sparire insomma non è proprio così sì, facile, anche perché il genitore deve comunque innanzitutto trasmettere la passione ai figli. Sì. A me non piace, ecco, per esempio nel nostro sport lo sci c'è la fortuna che accompagnando i figli si vive la gara con loro, perché si scia con loro. Sì. Cioè io con i miei figli ho sciato tantissimo quando erano piccoli, proprio al di là della gara, dopo la gara si andava a sciare tutti insieme, questa era una grande cosa. Sui campi da calcio, sui campi da tennis non si può fare insieme perché si può solo assistere alla sì, gara, capisci quello che voglio dire? No, è quindi fondamentale. E comunque certo, nello sci il genitore ha un ruolo importante perché deve accompagnare i figli, è faticoso fare il genitore di bambini sciatori perché le vatacce, materiale da trasportare, è uno sport piuttosto scomodo e faticoso e quindi sparire proprio non è possibile. Io sono d'accordo invece quando non bisognerebbe interferire col lavoro dell'allenatore, quindi sì, non mettere bocca. È chiaro che per noi competenti anche questo è difficile. È difficile tenere la bocca chiusa. Dottor Confalonieri, prima di salutare Ninna, ho visto che voleva intervenire. Sì, non ho detto di sparire, ho detto di osservare con attenzione e non interferire né con l'allenatore né col figlio. Bisogna che il figlio abbia l'idea che noi abbiamo fiducia nelle persone cui l'abbiamo affidato. Questo è fondamentale. Sì, volevo fare una domanda brevissima. Ninna è stata una milanese che si è affermata nello sci, quindi è andata un po' contro quanto si diceva inizialmente di scegliere lo sport anche in funzione della comodità e della praticità. È stato molto difficile affermarsi come milanese in uno sport di montagna? Per me no, anzi il fatto di essere milanese era quasi un vantaggio perché nel periodo fuori stagione potevo staccare completamente, avevo una mente molto aperta ad altre cose e non ero fossilizzata sullo sci. Idem per i miei figli che sono nati a Milano, poi vabbè siamo venuti in Val d'Aosta, però hanno la mentalità cittadina, cioè di quelli che vogliono provare tante cose, tante esperienze, far di tutto. Secondo me no. Nina, grazie per essere stata con noi. Un bacio alla Fede. Grazie, grazie a voi. Grazie. 800 24 0024 se volete intervenire, volete avere una mano dal dottor Confalonieri per aiutare il vostro figlio a scegliere uno sport, magari non l'avete fatto, se invece in casa avete dei piccoli campioni o notate che vostro figlio ha particolare talento, se avete dei rapporti con assidui, con allenatori, società, oppure rapporti che sono un po' difficili, dottor Confalonieri, usiamo questo termine, a volte si vedono proprio delle battaglie in campo, chiamateci, raccontateci la vostra esperienza e come sempre noi vi invitiamo a darci anche i vostri consigli. 349-238-6666. Una mela al giorno. Se le tue notti sono bianche, non continuate a lamentarti, io questo lo metto tra parentesi e lo aggiungo, ma parlane con il tuo medico. E questo il messaggio della 10ª giornata del dormire sano. Voi avete dormito questa notte? Come avete dormito? Io approfitto subito del dottor Confalonieri, che quando arriva in redazione ogni tanto è un po' affaticato e si lamenta. Com'è andata allora, dottor Confalonieri? Di solito sono un po' affaticato perché le mie giornate iniziano verso le 5 di mattina. Io non ho nessuna difficoltà ad addormentarmi, spesso anche molto presto, le 9:30, le 10, però dalle 3:30 alle 5 l'orario del mio risveglio. Insomma, il compagno ideale che arriva a casa, dorme e poi quando tu vorresti dormire si alza e quindi, esatto, ti disturba. Esatto. Lei dovrebbe parlarne non solo alla radio con noi, ma insieme al suo medico curante. Io ne metto uno. Grazie. E che medico a disposizione? In linea con noi abbiamo il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e membro della Commissione Unica sulla Nutrizione Umana presso il Ministero della Salute. Dottor Cricelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, si può far qualcosa per il dottor Confalonieri, che si addormenta come un orso subito appena ritorna a casa alle 9:30 e poi alla mattina è già lì che arzilla come un grillo e quindi dà fastidio comunque? Cosa dovrebbe dire al suo medico? Beh, nulla. Il medico semmai dovrebbe dire al dottor Confalonieri di ottimizzare la sua attività, perché è chiaro che poi ha bisogno di dormire. Il sonno è come un conto in banca, cioè un debito di sonno che non si può assolutamente eliminare, altro che dormendo. Quindi è naturale, quello che succede all'amico e collega Confalonieri è esattamente quello che dovrebbe succedere a tutti noi. Dormire bene vuol dire recuperare la quantità di sonno e la qualità del sonno che è necessaria per condurre una vita ottimale. Quindi bisogna dormire. Dottor Cricelli, bisogna, ma soprattutto bisogna cercare di farsi aiutare presto, perché se si accumula questo debito di sonno poi la situazione diventa più difficile da gestire e si pagano anche le conseguenze sulla salute generale, è così, vero? Sì, assolutamente sì. Purtroppo il sonno è uno di quei problemi che noi affrontiamo quotidianamente. Il sonno fa parte della nostra vita quotidiana, come l'alimentazione, come l'attività quotidiana, e purtroppo lo trascuriamo, nel senso che quando diventiamo insonni o dormiamo male, l'insonnia, sotto il nome di insonnia vanno tantissime situazioni diverse, noi lo affrontiamo in maniera spesso empirica con delle soluzioni che non sono quelle ottimali. Abbiamo fatto proprio questa iniziativa, aderendo a questo progetto, che è un progetto, si chiama Progetto Morfeo, proprio per diffondere anche tra i medici la cultura di base e i consigli di base, che poi non sono moltissimi e servono alle persone che stanno bene. Conservare una buona qualità del sonno deve avvenire quando dormiamo bene. Certo. Perché poi quando c'è già un'alterazione della qualità del sonno, della quantità del sonno, siamo già di fronte a qualcosa alla quale dobbiamo rimediare. Quindi le regole di base sono quelle di come dormire quotidianamente bene. Dottore, spesso nel weekend si cerca di recuperare il sonno, che molte persone si devono alzare presto alla mattina, vorrebbero dormire di più ma c'è la sveglia che suona, oppure si fa un pochino più tardi la sera e uno dice questo sabato e domenica mi riposo, dormo di più. serve, non serve, perché molti poi spesso pagano questo tentativo con mal di testa, un po' di, abbiamo la testa un po', no, nel pallone. Dottore, lei lo consiglia o no? Ci dia un consiglio per il fine settimana. Il concetto di base è che bisognerebbe andare a dormire ogni sera, e questa è la regola di base che noi diamo, andare a dormire ogni sera più o meno alla stessa ora e alzarsi ogni mattina alla stessa ora. Questo dà al sonno un ritmo ed un ciclo. Certo. Se noi abbiamo un ritmo per le giornate lavorative e poi nel fine settimana siamo costretti a recuperare, vuol dire che siamo andati in debito di sonno. È necessario recuperare questo debito, come abbiamo detto prima, però già questo ci pone in una condizione, perché ci dice se durante la settimana mettiamo in difficoltà il nostro ciclo del sonno. Quindi dobbiamo cercare di avere una grande regolarità. Può servire recuperare nel fine settimana, ma comunque stiamo stressando il nostro modo di dormire bene durante il resto della settimana. Quindi, dottor Confalonieri, lei anche il venerdì sera e sabato sera a letto alle 9:30, quindi non esca, e alle 5:30, se non, noi la sveglieremo noi. Dottor Cricelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon sonno. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno. Pronto soccorso. E noi abbiamo pochi minuti che ci separano dai mercati, dottor Confalonieri. Abbiamo un ospite che però non ci bruciamo, perché se no vogliamo dire qualche cosa ai nostri ascoltatori per invitarli a chiamarci. Stanno già arrivando numerosi messaggi riguardo al rapporto con allenatori e società. Lei è stato molto provocatorio, l'ha fatto apposta. Sì, apposta per stimolare un po' gli ascoltatori, e anche perché credo in quello che affermavo. Sì, potremmo trarre un altro spunto per una considerazione interessante da quanto diceva Nina Acquario, che parlava di un avvio multidisciplinare per la figlia, cioè da ragazzina, sfruttando le vacanze al mare, l'anno in montagna e comunque le situazioni che la vita gli proponeva, le ha fatto provare diverse attività, sì, sia attività sportive codificate, sia attività in forma di gioco, sia attività all'aria aperta come l'arrampicata o il mare inteso come palestra. Ecco, questo è sicuramente l'approccio migliore. Allora vorrei capire quanti fra i nostri ascoltatori sono riusciti o riescono, stanno provando con i loro figli fin verso i 9-10 anni a fargli sperimentare le diverse possibilità di utilizzare il nostro corpo in forma di sport, in forma di gioco, in forma di attività individuale o in forma di attività di gruppo o di squadra, e quanto sono soddisfatti di questa scelta. Quanti invece hanno già scelto un'attività e la stanno facendo con obiettivi di tipo agonistico, magari a 7-8 anni. 824 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire. Noi abbiamo detto, parliamo di genitori, abbiamo sentito Nina Acquario, e parliamo anche di figli, e in linea con noi abbiamo Valentina Marchei. Ciao Valentina. Buongiorno. Quindi sentiamo anche l'altra voce, pattinatrice su ghiaccio, che ha un papà che, devo dire, noi abbiamo avuto tante volte ospite, che è stato anche un grande campione di maratona. Hai scelto, Valentina, a differenza di Federica Brignone, tutt'altra cosa, perché non so se il grande Marco Marchei sarebbe stato ugualmente grande con i pattini. Ma chi lo sa, insomma, vedi, papà lì dice sempre che ho delle gambe rubate all'atletica, però io non ci credo, ma non ci credo. A me annoiava molto correre, per cui ho preso altre strade. Ma anche perché avevo incominciato il pattinaggio, è arrivato per caso. Io facevo ginnastica ritmica con Giulia Staccioli, che mio padre aveva conosciuto all'Olimpiadi di Mosca, sì, o di Los Angeles, poi papà saprà meglio, credo Los Angeles a questo punto. Sì. E quindi avevo incominciato con lei. Poi lei è stata presa con il gruppo dei Momix in giro per l'America a fare spettacoli, e quindi... Ma tu, come si dice, non sei rimasta al palo. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo Valentina Marchei e in studio il dottor Franco Confalonieri. Valentina, mi hai fatto morire da ridere, le gambe rubate all'atletica. Ma quando a un certo punto lui si sarà rassegnato? Ma sì, si era rassegnato. Ci ho provato con i miei fratelli, eh. Ah, certo. O meglio, quello piccolo ha 12 anni, per cui è in età, potrebbe incominciare ad essere, pare sia molto forte, per cui secondo me si lancerà. Mm. Ma il piccolo è un appassionato di basket, quindi la cosa bella di papà è che lui ci ha sempre spinto a fare sport come esperienza di vita, sì. Non per raggiungere obiettivi particolari, medaglie, ma sport come esperienza di vita e sport pulito, senza cercare cose particolari per raggiungere gli obiettivi. Quindi lui ci lascia molto liberi, non ci ha mai spinto. È ovvio che la sua passione gli piacerebbe condividerla con uno di noi tre. Ci ha provato con quello di mezzo, che adesso ha 18 anni, che in realtà di sport ne vuole fare, ma solo per divertimento. E quello piccolo sembra essere un po' più come me. Adesso ci rimane il piccolo. Senti, il piccolo, però, beh. Valentina, ma lui com'è stato con gli allenatori? Si è tirato fuori oppure diceva la sua? No, si è sempre tirato fuori, lui non ha mai voluto mettersi in mezzo, ha sempre fatto il papà con fiducia nel team in cui avevo e quindi ha lasciato che loro lavorassero. È ovvio che c'erano delle cose che a volte non gli andavano a genio e niente, ma è sempre stato zitto. È sempre stato zitto. Adesso ecco, facciamo una carambata e lo facciamo parlare. In linea con noi abbiamo il papà di Valentina, Marco Marchei. Ciao Marco. Ciao a tutti. Beh, certo che oggi veramente con questa figlia che ha parlato così bene del suo papà, cioè non ti sei sciolto, ci sei ancora oppure sei in un brodino? No, ci sono, ma queste cose ce le siamo sempre detti io e Valentina, io l'ho sempre fatto capire che in una realtà come quella che vive lei, soprattutto di alto livello, ognuno deve rispettare i propri ruoli, quindi l'allenatore deve fare l'allenatore, il dirigente, l'atleta, il papà, perché servono anche i genitori, cioè i genitori sono quelli che poi spesso danno l'equilibrio, mantengono un corretto equilibrio tra tutte le varie componenti o tra tutte le varie persone che girano intorno al ragazzo, al figlio in questo caso. Allora, il papà fa il papà, l'allenatore fa l'allenatore, il ragazzo fa il ragazzo e il dottor Confa fa il dottor Confa. Cosa vuole dirci? No, che sono molto contento delle cose che ho sentito, proprio perché rispondono a quanto raccontavamo all'inizio. Questa affermazione finale, ha dovuto ingoiare, insomma alla fine è stato zitto, è fondamentale, che non significa stare lontani, ma significa poi fare un bilancio insieme ai figli, io credo, alla fine dell'anno, e capire se la strada intrapresa è quella giusta o se bisogna cambiare qualcosa. Credo che questo sia uno spot eccezionale al rapporto genitori-figli, e io estenderei un po' quello che diceva Marco anche quando non si fa sport ad alto livello, proprio per la crescita del bambino credo che sia importante insegnare al figlio che deve avere fiducia. Un'ultima domanda brevissima a tutte e due. Valentina ha scelto uno sport in cui ci sono le giurie. Molto spesso il rapporto genitori-figli diventa problematico proprio nei confronti delle giurie, perché i genitori accentuano il vittimismo dei figli quando si sentono danneggiati, derubati o sconfitti ingiustamente. Volevo capire un po' qual era stata la loro esperienza e quale deve essere l'intervento di un genitore quel momento in cui si rende conto che magari il figlio è stato davvero vittima di un'ingiustizia. Non so, Valentina, cosa ci puoi dire? No, nella mia famiglia non c'è, ci sono vittimismi, ma non riguardo lo sport, nel senso che loro hanno sempre lasciato che la vivessi io, che crescessi con queste esperienze, di conseguenza non mi hanno mai né compatito né altro, hanno sempre affidato, la giuria ha deciso questo, vuol dire che aveva ragione. Insomma, mi sembra poi che questa formula funzioni, Valentina. Sì, poi ovvio ci sono casi un po' più eclatanti, per cui più si cresce più diventano eclatanti, quindi ma queste sono altre cose, però nella mia crescita assolutamente non mi hanno mai appoggiato da questo punto di vista, mi hanno sempre lasciato vivere, ed è questo in fondo che mi ha portato a lavorare sempre di più, perché non mi sono mai accontentata, trovavo sempre pelo nell'uovo anch'io. Quindi io darei la parola a Fabrizio, che si aggiunge alla nostra conversazione, ci chiama da Milano all'824 0024. Poi apriremo con Fabrizio, apriamo i microfoni ai nostri amici da casa, che adesso abbiamo un po' trascurato, ma proprio perché volevamo così mettere a punto il tema. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo parlare un attimo, ho seguito un po' la trasmissione così, e volevo dire, io faccio parte di quei ragazzi, perché ho 56 anni, che per fare dello sport, io abitavo nel Parmense, andavano via con la bicicletta, facevamo 5-6 chilometri, andavamo a giocare nei paesini, ci spogliavamo nelle parrocchie, insomma, faccio parte un po'. Poi nell'andare del tempo mi è capitato delle esperienze anche allenare al settore giovanile dei ragazzi così. E quello che io volevo, nel calcio, quello che volevo dire era, il primo punto è un po' questo, no? I ragazzi, quando il ragazzo sceglie di fare uno sport, normalmente lo fa perché gli piace, non è un'imposizione. Certo. E questo è molto importante, comunicarlo, la comunicazione col genitore, di fargli capire questo, perché a questo punto il genitore, i sacrifici che il ragazzo deve sostenere, l'impegno, tutto quello che è nell'ambito della squadra, anche per maturare come carattere, tutto quello che ne consegue, deve capire il genitore che è una scelta che ha fatto il ragazzino, perché il ragazzino naturalmente... Sì, questo Fabrizio l'abbiamo sottolineato più volte. Lei è per i genitori che partecipano attivamente o si tengono un po' fuori? Io mi sono trovato a avere a che fare con i genitori, perché allenando... Certo, e com'è andata? Allora, coi genitori, ai genitori quello che si chiede è comunque quello di partecipare sotto l'aspetto educativo, perché se io dico che il ragazzo deve stare in panchina perché ha un comportamento che non va bene, ma è per correggere il ragazzo e soprattutto per aggiustare magari nei confronti degli altri ragazzi, perché lui è più bravo, e l'esempio è molto importante, a questo punto il genitore deve mettersi da parte oppure dire sì, è giusto che hai fatto questo, perché se la domenica poi quando sta mangiando, insomma, Fabrizio è finita. Certo, Fabrizio propone una alleanza. Marco, Valentina ha anticipato che con il terzo tu hai qualche speranza, forse sarà lui a seguirti. Come ti comporterai? Bene, come ti sei comportato con Valentina e con Per forza, Nicoletta, non posso tradire la fiducia che ho dato agli altri due, è giusto che lui faccia la sua strada, anche perché lui è veramente un grande appassionato di basket, anche se l'altezza non depone granché a suo favore. Io credo che i ragazzi debbano andare avanti da soli e che noi dobbiamo consigliarli, non dobbiamo necessariamente riversare su di loro le nostre ambizioni. Io voglio che loro diventino delle brave persone grazie allo sport, e non che diventino dei pessimi sportivi o delle pessime persone a causa dello sport. Grazie a Marco Marchei e a Valentina per essere stati con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Una grande coppia, mi siete piaciuti molto. Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno. Volevo portare una piccola variante sull'argomento che sto ascoltando, della scelta dei genitori di non coinvolgersi emotivamente o imponendo la loro idea. Io ho una bambina di 12 anni, io ho un maschio di 21 anni, il maschio fa agonistica di tennis tavolo, la bambina purtroppo con l'impatto con le scuole medie, avendo 9 materie, non ha più tempo per fare attività fisica, e mi sono trovato costretto, pur di fargli fare sport come educazione, come rispetto del corpo, a fargli fare uno sport pratico, che è stato tennis tavolo, che fa anche il fratello. Questa mia imposizione però è stata più per fargli fare qualche attività fisica, perché tornando alle 3 da scuola, studiando 9 materie, non aveva più tempo per fare basket. Marcello, lei tocca veramente un tema molto di grande attualità, è un problema comune. Molti genitori ci scrivono anche dopo le nostre trasmissioni dicendo: ma dite tanto fare sport, ma se, con i figli che vanno a scuola, che devono studiare, i pomeriggi sono così corti, come si fa ad inserire l'attività sportiva? Si devono fare delle scelte, come diceva Marcello, quasi un'imposizione. Dottor Confalonieri, grazie Marcello per questo spunto. Sì, una telefonata molto utile, e non a caso a inizio trasmissione abbiamo detto il primo criterio di scelta deve essere il gusto del figlio e la praticità. Cioè, no, purtroppo Marcello molto correttamente ha detto: per poterle far fare qualcosa dovevo fare il tennis tavolo, perché già lo faceva il fratello e riuscivo a organizzarmi in funzione di. E ha sottolineato un altro aspetto problematico della nostra realtà, il fatto che a scuola ci siano molte richieste e non si faccia sport. E questo limita la scelta, perché io ritengo, ma non soltanto io, che una scuola a tempo pieno obbligatoriamente dovrebbe proporre almeno 2 ore di sport, o se no si dovrebbe tornare alla scuola non a tempo pieno, che lasci spazio ai bambini per giocare o per fare sport nel pomeriggio. La situazione attuale per cui viviamo di studio, ben fatto o mal fatto, e non possiamo muoverci, è una situazione veramente che danneggia in modo profondo la possibilità di crescere dei nostri figli, e purtroppo dobbiamo confrontarci come famiglie quotidianamente con questa realtà. Abbiamo in linea con noi Elio, buongiorno, dalla provincia di Bergamo. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa, probabilmente avrò il cellulare un po' taroccato e ho paura che mi cada la linea. Comunque, ma no, che non cade, Elio. Mi riferivo all'inizio proprio alla presentazione. Una cosa importantissima, io ho avuto la fortuna di poter fare l'allenatore per 20 anni. Il genitore, prima di tutto, dovrebbe vedere dove va il bambino. Ecco, vedi, è vero, era taroccato come dice Elio. Ha avuto il tempo di dire il genitore dovrebbe vedere dove va il bambino. Questo è un aspetto molto importante. Lei l'ha detto così come se fosse capitata una tragedia. Elio ha avuto il tempo di dire, Elio sta benissimo. Comunque, a parte quello... Perché povero Elio, adesso mi mettono anche il cardellino rosso. No, dove va a finire? È importante scegliere la società giusta, quindi prendersi del tempo per scegliere società, allenatore, compagni giusti e poi dare fiducia. Ecco, però il prerequisito della scelta è importante. Ma come si sceglie? Di società ce ne sono tante. Poi ci sono degli ascoltatori che mi scrivono: ho visto subito che non era l'allenatore giusto per mio figlio, faceva delle ingiustizie. Si sceglie innanzitutto grazie al passaparola, che comunque in questo ambiente funziona molto bene. Cioè si ascolta le esperienze di altri ragazzi e di altri genitori. E poi si parla, si sta nella struttura qualche ora, si vede le facce dei bambini che arrivano, di quelli che vanno via, si fa due chiacchiere con i genitori che si sono lì e si parla con i dirigenti. In base a quello si sceglie. Ma se un bambino fa fatica ad individuare lo sport che lo appassiona, è giusto forzarlo comunque a fare una scelta e impegnarsi seriamente? Ci scrive Fabrizio da Chieti. In linea di generale direi sì. Questo è fondamentale. Prova, alla fine trova qualcosa che ti piace. Ma no, perché sempre più spesso il bambino tutto sommato tende ad impigrirsi, a non fare nulla, preferisce la casa, il videogioco o quant'altro, per cui è anche un nostro compito dirgli: ok, tu non sei in grado di scegliere, scelgo io per te e con te, e adesso questo per un anno lo facciamo seriamente, perché comunque lo sport educativo, anche nel senso che ci educa al concetto che se si prende un impegno va mantenuto. Lei ha detto una cosa che mi piace molto, cioè almeno un anno. Invece spesso ci sono genitori che passano da: allora non gli piace più nuoto, via nuoto, allora lo infiliano a fare un po' di basket e poi a basket litigano, e allora ecco, bisogna darsi il tempo. Un anno è il tempo minimo, proprio minimo. Abbiamo ancora degli ascoltatori in linea, uno che lo passiamo prima di andare poi dalla dottoressa Melani, con cui avevamo un appuntamento proprio ieri in chiusura per parlare di un'alternativa all'epidurale. Buongiorno. Pronto? Eccoci. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Sì. Dunque, io ho un bambino di 8 anni. Sì. Che dall'età di 3 anni fa nuoto, quindi ha iniziato da piccolo prestissimo a fare nuoto. Prestissimo. Da 2 anni ha iniziato a fare calcio, spinto anche dagli amici, dai compagni di classe, eccetera, eccetera. Adesso ci troviamo nella situazione in cui lui sta facendo contemporaneamente tutti e due gli sport, e addirittura per quanto riguarda il nuoto gli hanno fatto la proposta di fare il periagonismo. Quindi si allena 2 volte alla settimana a calcio, più 3 volte alla settimana fa nuoto. Quindi ha tutti i pomeriggi occupati. Assolutamente sì, tranne uno. Adesso il problema è che stanno iniziando gli impegni che si contrappongono, certo, si sovrappongono, quindi calcio e nuoto. Dottor Confalonieri. Ma in linea di massima 5 allenamenti a settimana va bene, non ci sono problemi. Il momento ideale per scegliere sarebbero i 9-10 anni, e a quel punto, avendoli sperimentati tutte e due con continuità e impegno, è il figlio che è in grado di scegliere. Lasciamo scegliere a lui, perché li ha provati entrambi per un tempo lungo, e quindi a 9-10 anni è in grado di dirci: faccio quello. Ovviamente a quel punto però dovrà sceglierne uno e dedicarsi a quello. Ora siamo in una stanzetta dove ci sono anche altre 2 ragazze che stanno travagliando. È successo un parapiglia, mi hanno bloccato mentre stavo facendo un tazzebao. Fate a tutte l'epidurale. Sì, le hanno fatto l'epidurale, è una cosa meravigliosa. L'anestesia della parte inferiore, sì, così d'ora in poi, tutta la fine del travaglio. E il parto non soffrirà. Dottoressa Melani, buongiorno. Buongiorno. Direttore del reparto di anestesia materno infantile al Careggi di Firenze. Avevamo un appuntamento, l'abbiamo preso ieri, perché nel caso l'epidurale non fosse possibile, perché ci sono donne che non possono fare l'epidurale, l'ospedale di Careggi offre un'alternativa. Dottoressa. Esattamente, noi in questi casi, nelle pazienti che non possono, non vogliono avere l'epidurale, facciamo questa analgesia endovenosa con una sostanza che non è oppio come scrivono tutti i giornali, ma è una sostanza sintetica che ha una formula simile all'oppio e va quindi a agire sui recettori del dolore esattamente come agiscono i nostri oppioidi endogeni, perché noi abbiamo degli oppioidi nel nostro organismo, e eleva la soglia del dolore in modo che la paziente possa partorire senza grosso dolore. Avete già trattato 1000 donne, i risultati sono promettenti, dottoressa Melani. Di questo farmaco conoscete bene i meccanismi d'azione e anche i possibili effetti collaterali? Benissimo, è un farmaco che io conosco da tanti anni, perché è uscito molto prima che avesse questo impiego, per cui è un farmaco che si conosce bene ed è un farmaco assolutamente sicuro in mani esperte, perché è un farmaco maneggevolissimo per le sue caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche. Ha un inizio molto rapido e una fine molto rapida, è un farmaco che non si accumula e quindi non può dare degli effetti collaterali nel bambino dopo la nascita, né neppure nella madre. Dottoressa Melani, al momento all'ospedale di Careggi noi abbiamo fatto un po' magari ci è sfuggito sicuramente a qualche ospedale, è possibile, però già è un po' difficile trovare la possibilità di fare l'epidurale. Su questo farmaco, su questa seconda opzione, su questa alternativa, lo è ancora di più. Come mai? È difficile farlo su questa qui da noi. Noi lo assicuriamo 24 ore su 24. Sì, ma se uno deve proprio venire a Firenze, insomma, non si trova facilmente questa seconda opzione. Beh, è vero? Questo è un altro discorso. Non so a che cosa si è legata. Probabilmente alle mancata possibilità di farlo, alla non perfetta conoscenza del farmaco, non glielo so dire. Però a Firenze ci sono altri centri che lo fanno. A Firenze lo fa anche un altro ospedale, l'ospedale di Ponte Annicheri. E comunque io sono stata contattata da diversi ospedali della Toscana, esatto, e fuori della Toscana, che mi hanno chiesto i nostri protocolli. E quindi, insomma, speriamo, no? Oltre all'epidurale c'è di più. Grazie dottoressa Melani per essere stata con noi. Prego. Grazie, buon lavoro. Buongiorno. Dottor Confalonieri, noi ci salutiamo. Lei lo sapeva di questa possibilità? No, l'ho ascoltata ora. Bene, senta, invece noi la prossima settimana abbiamo pensato, possiamo lanciarlo, di fare una puntata per le persone che odiano lo sport. Sì, quelle che sono stufe di sentirsi dire lo sport fa bene, l'esercizio fisico fa bene, dovete fare sport, non lo vogliono fare. E non lo vogliono fare e vorranno intervenire alla nostra trasmissione, per cui chi non vuole fare sport, appuntamento a venerdì prossimo. Lo aspettiamo e intanto io vi saluto e vi aspetto domani a questa casa non è un albergo. Buona giornata da Nicoletta Carbone.